Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola della sesta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Alteria, a cui toccava il primo luogo di favoleggiare, messa giù la viola e il plettro che aveva in mano, alla sua favola in tal modo diede principio. Favola prima. Due compari s'amano insieme e l'uno e l'altro si ingannano e finalmente fanno le mogli comuni. Grandi sono l'astuzia e gli inganni che oggidì usano i miseri mortali, ma molto maggiori penso siano quelli quando l'un compare tradisse l'altro. Dovendo adunque con una favola dar cominciamento ai ragionamenti della presente notte, hommi immaginato di raccontarvi l'astuzia, l'inganno e il tradimento che fece l'un compare all'altro. E quantunque il primo ingannatore con mirabil arte ingannasse il compare, non però con minor astuzia né con minor ingegno si trovò esser gabbato da lui. Il che fiavi aperto, se benigna audienza mi prestarete. In Genova, città celebre d'antica, furon nei passati tempi due compari, l'uno di quai chiamavasi messer Liberale Spinola, uomo assai ricco, ma dedito a piaceri del mondo. L'altro, messer Artilao Sara, tutto dedito alla mercatanzia. Questi molto s'amavano insieme, e tanto era l'amore tra loro, che l'uno senza l'altro quasi non sapea vivere. E se occorreva bisogno alcuno, senza indugio e senza rispetto l'uno dell'altro si prevaleva. E perché messer Artilao era mercatante grosso e faceva molte faccende sì sue come d'altrui, deliberò di fare un viaggio in Soria. E trovato messer Liberale, suo cordialissimo compare, amorevolmente, con animo sincero, gli disse: «Compare, voi sapete, e già è manifesto ad ognuno, quanto e qual sia l'amor tra noi, e il conto che io sempre fei e ora fo di voi. Sì per la lunga amicizia, già gran tempo fra noi contratta, sì anco per lo sacramento del comparatico che è tra noi. Laonde, avendo io stabilito nell'animo mio di andare in Soria, ne avendo persona di cui maggiormente fidarmi possa che di voi, con baldezza e fiducia sono ricorso a voi per ottenere una grazia, la quale, ancor che sia con non picciolo disconcio delle cose vostre, spero però nella bontà vostra e nella benevolenza e tra noi non me la negherete». Messer Liberale, che era desideroso molto di far cosa grata al compare, senza più distendersi in parole, disse: «Messer Artilao, compare mio, l'amore e il comparatico contratto tra noi con sincero e reciproco amore non richiede tante parole. Ditemi liberamente il desiderio vostro e comandatemi, ch'io son per far quanto voi mi imporrete». «Io», disse messer Artilao, «volentieri vorrei che voi, mentre starò fuori, prendeste il carico di governar la casa mia, e parimenti la moglie, sovenendole di tutto quello le fia bisogno. E quanto per lei spenderete, di tanto soddisferovvi a pieno». Messer Liberale, intesa la volontà del compare, prima lo ringraziò assai della buona opinione che di lui tenea e del conto che facea. Dopo, liberamente li promise, secondo le deboli sue forze, di esseguire quanto da lui gli fia imposto. Venuto il tempo di andare al viaggio, messer Artilao caricò in nave le sue merci, ed Aria, sua moglie, che era gravida di 3 mesi, raccomandata al compare, ascese in nave. E date le vele al prosperevole vento, da Genova si partì e con buona ventura al suo viaggio se n'andò. Partitosi adunque messer Artilao e gitosene al suo cammino, messer Liberale se n'andò a casa di Madonna Daria, sua diletta comare, e dissele: «Comare, messer Attilao, vostro marito e mio carissimo compare, innanzi che egli si partisse di qua, con grandissima instanza mi pregò che le cose sue e la persona vostra raccomandata mi fusse, sovenendomi di tutto quello che vi fia bisogno. Io, per l'amorevolezza che fu ed è tra noi, gli promisi di far quanto mi comandava. Però io me ne sono qui ora a voi venuto, acciò che, occorrendovi cosa alcuna, senza rispetto mi comandiate». Madonna Daria, che per natura era dolcissima, sommamente lo ringraziò, pregandolo che non le mancasse nelle sue bisogna, e così messer Liberale le promise. Continovando adunque messer Liberale la casa della comare, né lasciandole cosa alcuna mancare, conobbe lei esser gravida, e fingendo di non saperlo, disse: «Comare, come vi sentite? Vi par forse strano della partenza di messer Attilao, vostro marito?» Rispose Madonna Daria: «Certo sì, messer compare, e molti rispetti, e maggiormente per trovarmi nei termini che ora mi trovo». «Ed in quai termini», disse messer Liberale, «vi trovate?» «Gravida in 3 mesi», rispose Madonna Daria, «ed io una gravidanza sì strana ch'io non ebbi mai la peggiore». Il che sentendo, il compare disse: «Dunque, comare, voi siete pregna?» «Così fosse il compare», rispose Madonna Daria, «ed io sarei digiuna». Dimorando messer Liberale in tali ragionamenti con la comare, e vedendola bella, fresca e ritondetta, in tal maniera del suo amor s'accese, che dì e notte non pensava ad altro salvo che a conseguir il disonesto suo desire. Pur l'amor del compare lo rimoveva alquanto, ma spronato dall'ardente amore che lo struggeva, s'accostò a lei e disse: «Oh, quanto, comare mia, mi incresce e duole che messer Attilao sia da voi partito e lasciata pregna, perciò che, per la sua presta partenza, egli s'avrà di leggeri domenticato finire la creatura che nel ventre portate, e da questo forse procede la mala gravidezza ch'avete». Rispose la comare: «Avete voi, o mio compare, cotesta opinione che la creatura che io tengo nel ventre sia di qualche membro manchevole, e ch'io per questo patisca?» «Veramente», disse messer Liberale, «io sono di questa opinione, e tengo per certo che messer Attilao, mio compare, sia mancato farle tutte le sue membra intiere. E di qua procede che uno nasce zoppo, l'altro tratto, e chi in un modo e chi in un altro». «Questo che voi dite, compare, mi va forte per capo», disse la comare, «ma che rimedio sarebbe a questo, a ciò che io in tale errore non incorresse?» «Ah, comare mia», disse messer Liberale, «state di buona voglia, né vi smarite punto, perciò che ad ogni cosa si trova rimedio, fuori che alla morte». «Io vi prego», rispose la comare, «per quell'amore che portate al compare, che mi date questo rimedio, e quanto più presto me lo darete, tanto più vi sarò tenuta, né sarete causa che la creatura nasca con difetto». Vedendo messer Liberale aver ridotta la comare a buon termine, disse: «Comare, gran viltà e scortesia sarebbe che l'amico, vedendo l'amico perire, non gli porgesse aiuto. Potendo adunque io formar lo restante della creatura in quello che manca, vi sarei traditore e vi farei gran torto a non sovenirvi». «Beh, caro mio compare», disse la donna, «più non tardate a ciò che la creatura non rimanga impedimentata, il che, oltre al danno, sarebbe non picciolo peccato». «Non dubitate punto, comare, che servirò via pieno. imponete alla fante che apparecchia la mensa, che in questo mezzo noi daremo cominciamento alla riforma nostra. Mentre che la fante apparecchiava il desinare, messer liberale andò in camera con la comare e, chiuso l'uscio, cominciò a carezzarla e baciarla, facendole le maggior carezze che facesse mai uomo a donna. Il che vedendo, Madonna Daria molto si maravigliò e disse: «Come, messer liberale, fanno così fatte cose e compari con le comare? Ohimè trista, egli è troppo gran peccato, e se non fosse questo, io ve contenterei». Rispose messer liberale: «Qual è maggior peccato, o giacere con la comare, o che nasca la creatura imperfetta?» «Giudico esser maggiore quando nasce imperfetta per colpa dei lor parenti», rispose la donna. «Adunque», disse messer liberale, «voi fareste gran peccato se non mi lasciaste sopplire in quello che mancò il vostro marito». La donna, che desiderava che il parto nascesse perfetto, credette alle parole del compare e, nonostante il comparatico, si recò a dover fare i suoi piaceri e più volte si ritrovarono insieme. Piaceva molto alla donna la riforma delle defettive membra e pregava il compare che non mancasse, come già era mancato il marito. Il compare, a cui piaceva il boccone, con ogni studio, dì e notte, s'affaticava alla riforma della creatura, acciò che intiera nascesse. Venuto il termine del parto, Madonna Daria parturì un bambino che in tutto rassomigliava al padre, ed era sì ben formato che non vi era membro che non fosse in ogni parte perfetto, di che la donna molto si rallegrava, ringraziando il compare che di tanto bene era stato cagione. Non passò molto tempo che messer Artilao ritornò a Genova e, giunto a casa, trovò la moglie sana e bella, la quale, gioiosa e festevole, se gli fe incontro col fanciullo in braccio e strettamente s'abbracciarono e baciarono. Intesa messer liberale la venuta del compare, subito se n'andò da lui e l'abbracciò, rallegrandosi del felice ritorno e del benesser suo. Avvenne che, trovandosi un giorno messer Artilao a mensa con la moglie e accarezzando il fanciullo, disse: «Daria, oh, com'è bello questo bambino! Vedessi mai tu il più ben formato! Guarda che aspetto! Mira che viso! Considera quegli occhi lucenti come stelle!» E così, di parte in parte, il comendava in tutti gli suoi membri. Rispose Madonna Daria: «Certo, nulla vi manca, ma non già per opera vostra, marito mio, perciò che nella partenza vostra, come sapete, di 3 mesi mi lasciaste gravida e il bambino nel mio ventre restò delle sue membra imperfetto, di che ne portava gran sinistro nella gravidezza mia. Onde noi avemo da ringraziare messer liberale nostro compare, il qual, sollecito e diligente, con la virtù sua sovenne l'imperfezione del bambino, sopplendo in tutte quelle parti nelle quali voi avete mancato». Messer Artilao, udite ben intese le parole della moglie, stette sopra di sé, e quelle gli furono un coltello al core, e subito comprese messer liberale averlo tradito e contaminata la donna, e da uomo prudente, fingendo di non aver intesa la cosa, tacque ed in altri ragionamenti si mise. Levatosi da mensa, messer Artilao cominciò tra se stesso considerare lo strano e vergognoso portamento del compare, il qual sopra ogni altra persona amava, pensando giorno e notte con qual modo e con qual via della ricevuta ingiuria vendicar si potesse. Dimorando dunque il passionato in tai pensieri, né sapendo che strada tenere, pur al fine s'imaginò far cosa che gli riuscì, secondo che egli voleva ed era il desiderio suo. Onde disse alla moglie: «Daria, fa che dimane tu apparecchi da desinare più lautamente, perciò che io voglio che messer Liberale e Madonna Properzia, sua moglie e nostra comare, venghino a desinare con noi. Ma fa per quanto hai cara la vita, non parli, sofferendo pazientemente ciò che veder e intender potresti». Il che di fare, Madonna Daria rispose. Partitosi di casa, andò in piazza e trovò messer Liberale, suo compare, e l'invitò con Madonna Properzia, sua moglie, lo giorno seguente a desinar seco. Egli graziosamente accettò l'invito. Venuto il giorno seguente, il compare e la comare andarono alla casa di messer Artilao, ove furono amorevolmente veduti e accettati. Essendo tutti insieme e ragionando di varie cose, disse messer Artilao: «Comare mia, mentre che si cuoceranno gli cibi e apparecchiassi la mensa, voi vi farete una zuppa». E menatale in un camerino, le porse un bicchiere di alloppiato vino, ed ella, fattasi una zuppa, senza timore alcuno, la mangiò e tutto il vino bevè. Poi se n'andorono a desinare e lietamente mangiorono. Appena che avevano fornito di mangiare, che a Madonna Properzia venne sì fatto sonno che non potea tenere gli occhi aperti, il che vedendo messer Artilao disse: «Comare, voi ve n'andarete un poco a riposare, forse avete la passata notte mal dormito». E menola in un camerino, dove, gettatasi sopra un letto, subito s'addormentò. Messer Artilao, temendo che la virtù della bevanda non venisse a meno e gli mancasse il tempo di operar quello che nell'animo nascoso tenea, chiamò messer Liberale e dissegli: «Compare, partiamosi di qua e lasciamo la comare al suo bel agio dormire, che forse per essere ella levata troppo per tempo ha di bisogno di riposare». Partitisi adunque ambiduo ed andatisi in piazza, messer Artilao finse di voler ispedire certi suoi negozi e, presa licenzia dal compare, nascosamente ritornò a casa. E chetamente entrato in camera dove la comare giaceva, s'approssimò a lei e, veduto che dolcemente dormiva, senza che alcuno di casa se la vedesse, né che la comare sentisse, quanto più destramente che puote, le levò le anella dalle dita e le perle dal collo e di camera si partì. La bevanda dell'alloppiato vino già aveva persa la sua virtù quando Madonna Properzia si destò e, volendo levarsi di letto, vide che le perle e l'anella gli mancavano. E levata di letto, or qua or là cercando e ogni cosa sotto sopra volgendo, nulla trovò. Onde tutta turbata uscì di camera e da Madonna Daria addimandò se per avventura ella avesse avute le sue perle ed anella e riservate, a cui rispose che no. Per il che Madonna Properzia stava molto addolorata. Dimorando la poverella in tal affanno, né sapendo che rimedio prendere, sopraggiunse messer Artilao e, vedendo la comare tutta affannosa e di malavoglia, disse: «Che avete, comare mia, che sì forte vi rammaricate?» La comare narrògli il tutto. Messer Artilao, fingendo nulla sapere, disse: «Cercate bene, comare mia, e pensate se in luogo alcuno, che ora non vi sovviene, posto le avete, che forse le troverete. E non trovandole, vi prometto, da fede di buon compare, che io farò tal provisione, che gramo sarà colui che l'avrà tolte. Ma prima che si faccia movimento alcuno, cercate diligentemente in ogni parte». Le comari e le fanti cercarono e ricercarono per tutta la casa, ogni cosa rivolgendo sotto sopra, e nulla trovarono. Il che vedendo, messer Artilao cominciò a far rumore per casa, minacciando or questo or quello, ma tutti con giuramento dicevano nulla a sapere. Dopo, voltosi verso Madonna Properzia, disse: «Comare mia, non vi rattristate, ma state allegra, che io son disposto a vedere il fine di questo, e sappiate, comare mia, ch'appresso me è un secreto di tanta virtù, che, sia qual esser si voglia che tolte abbia le gioie, io lo scoprirò». Questo intendendo, Madonna Properzia disse: «Oh, messer compare mio, di grazia vi prego, fate l'isperienza, acciò che messer liberale non mi avesse sospettata e pensasse di me qualche male». Messer Artilao, vedendo esser venuto il tempo opportuno di vendicarsi della ricevuta ingiuria, chiamò la moglie e le fanti e dissele che uscissero di camera e che niuna sia di tanto ardire che s'approssimi alla camera se prima non sarà chiamata. Partita la moglie con le fantesche, messer Artilao chiuse la camera e con un carbone fece un cerchio in terra. E fatti alcuni segni e certi caratteri a modo suo, entrò nel cerchio e disse a Properzia: «Comare mia, state cheta nel letto, né vi muovete, né abbiate spavento di cosa che sentir potreste, perciò che non mi leverò di qua, che troverò le gioie vostre». «Non dubitate punto di me», disse la comare, «ch'io non mi muoverò, né farò cosa alcuna senza comandamento vostro». Voltatosi allora messer Artilao verso la parte destra, fece alcuni segni in terra. Indi alla sinistra ne fece alcuni in aria, e fingendo di parar con molti, formava varie strane voci di maniera che Madonna Properzia si smarriva alquanto. Ma messer lo compare, che di questo se ne vedeva, le dava animo, confortandola che non si smarrisse. Essendo il compare stato nel cerchio per spazio di mezzo quarto di ora, mandò fuori una voce che borbottava e in tal guisa diceva: «Quel cor non trovi e che cercando vai, giace nel fondo della val pelosa. Chi vi la tien, chi l'ha perduta, ascosa? Ma pesca ben, che tu la troverai». Queste parole diedero a Madonna Properzia non minor allegrezza che maraviglia. Finito che fu l'incanto, disse il compare: «Comare, voi avete udito il tutto, e le gioie che smarrite esser credete sono in voi. State allegra e di buon animo, che troveremo il tutto, ma fa bisogno ch'io le cerchi dove inteso avete». La comare, che desiderava riaver le sue gioie, allegramente rispose: «Compare mio, intesi bene il tutto. Non tardiate, ma con ogni diligenza cercate». Messer Artilao, uscito fuori del cerchio ed andatosene al letto, si coricò appresso la comare, la qual non si mosse, e levateli i panni e la camiscia, cominciò a pescare nella val pelosa. E trattosi, non avvedendosi lei, nella prima tratta che egli fece, un anello di seno, gli lo porse, dicendo: «Vedete, comare mia, com'io ben pescato, che alla prima tratta presi il diamante». La comare, veduto il diamante, molto s'allegrò e disse: «O dolce mio compare, pescate ancora, che forse troverete l'altre gioie». Il compare, seguendo virilmente la pescagione, ora trovava una gioia, ora l'altra, e finalmente col suo anzino trovò tutte le smarrite cose. Di che la comare molto paga e contenta rimase. Riavute tutte le sue care gioie, disse la comare: «O dolce mio compare, voi mi avete recuperato tante cose. Vedete, per vostra fe se per avventura, pescando, poteste ritrovare un secchielletto molto bello che agli passati giorni mi fu rubato ed erami molto caro. Rispose messer Artilao: molto volentieri. E gettato da capo lo strumento nella val pelosa, tanto soperò che toccò il secchiello, ma non ebbe tanta forza di trarlo fuori, e vedendo affaticarsi indarno, disse: comare mia, ho trovato il secchiello ed ollo veramente tocco, ma perciò che è volto col fondo in su, lo strumento non si è potuto attaccare e per questo non lo posso traer fuori. Madonna Properzia, che desiderava averlo e che il giuoco molto le piaceva, gli persuadeva che pescasse ancora, ma il compare, a cui mancava l'olio della lucerna, sì che più non ardeva, disse: comare, sappiate che lo strumento con cui finora abbiamo pescato ha rotta la punta e non può più operare, però per ora avete pazienza. Dimane manderò lo strumento al fabbro che gli farà la punta. Dopo, bell'agio, pescheremo il secchielletto. Ella s'accontentò e, tolta licenza dal compare e dalla comare, allegra e contenta ritornò a casa sua. Giacendo Madonna Properzia una notte in letto col marito e stando in piacevoli ragionamenti, pescando tuttavia ancor lui nella val pelosa, disse: o marito, per vostra fe, guardate se, pescando, potreste mai per avventura trovare il secchielletto che nei passati giorni perdessimo. Perciò che l'altrieri, avendo io perse le mie gioie, messer Artilao nostro compare, pescando in questa valle, trovòle tutte. Onde, avendolo io pregato che pescasse anche il secchielletto perso, disse averlo tocco, ma non averlo potuto pigliare, perciò che era col fondo in su e lo strumento suo, per lo tanto pescare, aveva rotta la punta. Però sperimentate ancor voi se ritrovarlo poteste. Messer Liberale, avedutosi del rimando fattogli dal compare, s'ammutì e pazientemente il scorno sofferse. La mattina seguente ambidue compari si trovarono in piazza e l'un guardava l'altro. Non però né l'uno né l'altro osava scoprirsi, ma tacendo l'una parte l'altra, né facendo alle mogli motto, finalmente le fecero comuni e davasi l'uno all'altro luogo di poter con l'altrui moglie prender trastullo. Fine della storia. Piacque sì la favola d'Alteria raccontata, che non vi fu altro tutta quella sera che ragionare, pensando con quale astuzia, con qual arte l'uno ingannasse l'altro. Ma la signora, che vedeva le risa e i ragionamenti troppo oltre procedere, comandò che al ridere si ponesse fine, e che Alteria con l'enimma l'ordine seguisse. Ed ella, senza interporre altra dimora, disse: il candido mio nervo duro e forte, parte peloso e parte perforato. Entrovi bianco e asciutto, o dura sorte, e fuori, dopo uscì, nero e bagnato. Onde servir altrui mai non si stanca, se il duce che lo guida non gli manca. Non fu di minor piacere l'enimma d'Alteria recitato che fusse la favola, e quantunque in apparenza alquanto disonesto apparesse, non però le donne s'ammutirono, perciò che altre volte sentito lo avevano raccontare. Ma Lauretta, che fingeva di non intenderlo, pregola che li sponesse. Ma ella, sorridendo, disse: signora Lauretta, egli è superfluo portare i crocodili all'Egitto, i vasi a Samo e le nottue ad Atene, ma per farvi piacere la esponerò, dichiarandovi il nervo piloso e perforato esser la penna con cui si scrive, la qual, prima che si mette nel vaso, è bianca e asciutta, ma tratta fuori del vaso, rimane nera e bagnata. E serve al scrittore, che la guida quanto gli piace. Fine della prima favola della sesta notte.